Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ben ritrovati a Olimpia, la città dello sport. Quella che gli dei dell'Olimpo e dello sport ci chiedono di raccontarvi oggi è la storia di una dittatura, quella del generale Augusto Pinochet in Cile, di uno stadio galera, di un gol assurdo e di un rigore sbagliato. Ma anche la storia di un calciatore, o meglio di un uomo, Carlos Caselli, bandiera del calcio cileno, entrato nella leggenda per un errore dal dischetto che fu più di uno sgarbo per quella dittatura. E allora andiamo subito indietro nel tempo per rivivere quei giorni dolorosi e drammatici del settembre 1973. Le parla il Presidente della Repubblica, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. È l'11 settembre del 1973. La voce del presidente Salvador Allende avvisa i cileni che quanto temuto nei giorni, nelle ore precedenti, sta diventando realtà. Il golpe militare contro il governo socialista guidato da Allende è in atto. Il presidente e i suoi fedelissimi si rifugiano nel Palazzo della Moneda a Santiago. Ben presto i militari lo assediano. La Fuerza Armada y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Pochi minuti dopo questo avviso, la residenza presidenziale sarà sorvolata da caccia e bombardata. Piuttosto che consegnarsi ai golpisti, Allende sceglie la morte, non prima di aver lasciato via radio al paese il suo testamento spirituale. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Le notizie del golpe arrivano attutite e incomplete nel ritiro della nazionale cilena di calcio, che in quelle stesse ore sta preparando lo spareggio contro l'Unione Sovietica che vale un posto ai mondiali del 1974, che si disputeranno in Germania Ovest. E tra quei calciatori c'è anche Carlos Caselli, attaccante del Colo Colo, di certo tra gli uomini simbolo di quella squadra. I suoi tifosi lo chiamano il re del metro quadro, perché difficilmente sbaglia quando la palla gli arriva in area di rigore. Di forti simpatie socialiste, Caselli capisce ben presto che in quelle ore il suo Cile sta precipitando in un abisso da cui rivedrà la luce solo molti anni dopo. Pinochet e la sua giunta assumono rapidamente il potere. Ha inizio così una dura e violenta repressione contro ogni forma di opposizione democratica. Intanto la nazionale cilena vola a Mosca, dove il 26 settembre del 73 strappa un prezioso 0-0 ai sovietici. Per qualificarsi ai mondiali basterà un successo nel ritorno, in programma il 21 novembre proprio a Santiago. Nel frattempo però lo stadio nazionale della capitale è diventato tutt'altro che un luogo deputato allo sport. È proprio in quello stadio infatti che i militari radunano e detengono migliaia di oppositori o presunti tali, fermati durante perquisizioni, rastrellamenti, sequestri. Tra quelle migliaia di persone anche un ventenne giornalista italiano, Paolo Utter, oggi blogger e direttore del sito ambientalista ecodallecittà.it. Aveva poco più di 20 anni con un linguaggio successivo mi definirei un turista politico. Ero andato a vedere che cosa succedeva in Cile e poi stavo iniziando a fare giornalista. Come tanti altri, Utter viene fermato e arrestato quasi per caso. Sono finito in quello stadio perché, in generale, perché controllavano molta gente, portavano lì moltissima gente. Io in particolare ho destato i sospetti dei militari perché sono entrato in un condominio, una torre, stavo andando a cercare un socialista, cui conoscevo l'indirizzo, proprio mentre loro stavano facendo delle perquisizioni e tra l'altro stavano portando via proprio il tizio che io volevo andare a trovare. quindi sono rimasti insospettiti dal mio entrare in quella torre, mi hanno fatto salire su un pullman, facevano praticamente dei rastrellamenti di chiunque gli sembrasse sospetto in giro per la città, e nonostante le mie lamentele di parlare subito con l'ambasciata, col consolato, eccetera, mi hanno portato allo Stadio Nazionale. Quando siamo arrivati ho capito subito che cos'era, perché si era già diffuso la voce che lo Stadio Nazionale fosse usato come campo di concentramento, e così per la prima volta, diciamo, sono entrato nello stadio del Cile. Fino a poche settimane prima erano state le urla dei tifosi a riempirla. Ora l'atmosfera del Nazionale è satura di violenza e terrore. I primissimi giorni sono stati i peggiori, perché i militari erano molto nervosi, molto aggressivi, volevano impedirci in tutti i modi, c'era un grande sovraffollamento, sembrava quasi che lo facessero apposta. E infatti poi molti anni dopo ho saputo che in quei primissimi giorni sono state anche fucilate delle persone, non davanti a tutti nello stadio, ma proprio nelle mete adiacenze. Tenete conto che noi abitavamo nella pancia dello stadio, cioè negli spogliatoi, e venivamo portati come una lunghissima ora d'aria, diciamo, a metà mattinata fino a metà pomeriggio venivamo portati a sedere in tribuna sulle gradinate. La quotidianità di quelle giornate in quegli spogliatoi, su quegli spalti, è straniante e grottesca. Mattina sveglia, poi arrivava una pietosa pagnottina con una specie di caffè latte che ci veniva portato alla porta dello spogliatoio, poi dopo noi tutti facevamo questa modesta colazione, poi ci venivano a chiamare, ci mettevano in fila per due alla militare e ci facevano andare sulle tribune, dove appunto si chiacchierava, si faceva varia mondanità detenuta per 5 ore così, direi, tenete conto che stava semplicemente finendo l'inverno dal punto di vista della stagione, cominciare la primavera. Poi stessa cosa a rovescio, un rancio, una specie di minestrina nella quale probabilmente ci mettevano qualcosa anche per tenerci calmi, perché abbastanza presto ci veniva sonno. E intrattenimenti tra di noi, tenendo conto che non avevamo praticamente niente, quindi si parlava, si chiacchierava tantissimo. L'idea del calcio, in quell'universo stravolto e dolente, torna buona per passare il tempo, per farsi coraggio. Siccome bisognava comunque trascorrere del tempo e tenersi di morale, ovviamente non mancavano le battute autoironiche sul fatto che eravamo in uno stadio, e chi raccontava quando comincia la partita, ma insomma quando escono le squadre, tutte queste battute qua. La cosa più divertente è che ogni tanto, per mantenere comunque lo stadio, giravano dei tizi con la macchinetta per tagliare l'erba. Quando si mette per tagliare l'erba del prato, si avvicinava alla porta, noi prigionieri cominciavamo a fare così, e poi se la macchinetta taglia erba infilava la porta, esplodevamo in un boato di gol, gol, gol. Era un modo abbastanza spiritoso per tenersi su. Per fortuna di Paolo Hutter, la macchina della dittatura e della repressione non ha ancora messo a punto tutti i suoi ingranaggi. Io ho avuto, come tutti, un interrogatorio, e avevo molta paura di questo interrogatorio, perché effettivamente se lo avessero ricollegato che mi avevano fermato nella stessa casa dove avevano arrestato un dirigente socialista, eccetera eccetera, cioè era abbastanza difficile per me la situazione. Invece, per fortuna, tanto quanto puntavano a terrorizzare la gente, però non erano perfettamente organizzati, quindi chi mi ha interrogato non aveva un registro, una registrazione precisa di dove ero stato arrestato, quindi praticamente ho potuto raccontargli io che ero stato fermato a un posto di blocco per strada generico, e che ero stato portato lì in quanto risultava strano che ci fosse un italiano residente in Italia della mia età in giro per il Cile. Ho accettato di fare la figura dello scemo, di quello che è andato a fare il turista senza rendersi conto di dove andava, in che stagione andava, in che situazione andava e così via. Quindi l'interrogatorio è passato senza particolari complicazioni. Poi, evidentemente per pressioni dell'ambasciata, c'è stato un attimo di grande spavento qualche giorno dopo, quando mi hanno richiamato all'altoparlante assieme a tanti altri per presentarmi in un punto del campo per essere interrogato. Allora io mi sono molto spaventato perché mi sono detto: cavolo, mi interrogano di nuovo. E invece quello era l'effetto tardivo di una pressione dell'ambasciata perché finalmente mi interrogassero. Infatti quando poi ho detto: ma sono già stato interrogato, allora hanno capito l'equivoco, non mi hanno interrogato più. A quel punto sono passati ancora, mi pare, un paio di giorni, poi finalmente una mattina è arrivato un militare che mi ha chiamato e mi ha detto che era venuto uno dell'ambasciata per accompagnarmi via. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro. Passeranno 30 anni prima che Hutter ritorni in Cile, in quello stesso stadio, su quelle stesse tribune, stavolta però per celebrare la fine di quella dittatura. Passano invece poche settimane da quel tragico 11 settembre 1973 e il Nacional torna a essere, da luogo di detenzione, stadio in piena regola, palcoscenico di una partita assurda e insensata, sfregio e stravolgimento da parte della dittatura dello stesso spirito del calcio e dello sport. È il 21 novembre 1973 quando il Cile si qualifica ai campionati del mondo di Germania Ovest 74. Ma sul prato dello Stadio Nacional l'avversario semplicemente non c'è. Dopo lo 0-0 di Mosca, infatti, l'Unione Sovietica si rifiuta di disputare la gara di ritorno prevista a Santiago. Ma il regime ha bisogno di celebrare comunque la propria vittoria. E allora non solo che si giochi nello stadio Lager, ma, col benestare della FIFA, ben venga anche una partita senza avversario. Carlos Caselli e compagni scendono in campo da soli, con un arbitro austriaco che fischia all'inizio di questo match surreale e col capitano cileno Francisco Valdés che mette a segno il gol più assurdo della storia del calcio, a porta vuota e senza portiere avversario. Quasi le parole non riescono a raccontare quella rete surreale e allucinata. Qualcuno ci ha provato in punta di matita, come Federico Appel, disegnatore di graphic novel, che ha inserito questo gol nel suo volume Pesi Massimi. Caselli non era l'unico di fede socialista tra i calciatori cileni in quella nazionale, ma c'era anche Francisco Valdés, centrocampista, il quale si racconta che appunto negli spogliatoi dopo la partita e dopo aver segnato lui stesso un gol, Valdés vomitò, diciamo, dopo aver trattenuto evidentemente una tensione tremenda per 90 minuti. E questo elemento, ad esempio, è al di fuori da quello che dovevo raccontare io, al di fuori dallo spazio che avevo. Il fumetto è anche trovare degli spazi, diciamo, molto ben delimitati. Allora io, ad esempio, in un'immagine ho provato a inserire un'immagine del povero Francisco Valdés che racconta a sua volta e arricchisce la storia, insomma. Carlos Caselli non dimenticherà mai quel pomeriggio, quel gol assurdo, quella farsa. Passeranno quasi 10 anni prima che possa prendersi la sua rivincita. Quasi 10 anni e 11 metri. Olimpia, miti e verità dello sport. Quella che vi stiamo raccontando oggi a Olimpia non è solo la storia di una dittatura, quella del generale Pinochet in Cile, e di un gol assurdo, quello a porta vuota e senza avversari nello stadio Lager di Santiago, che regalò proprio ai cileni la qualificazione ai mondiali del 1974. In questa storia c'è anche un rigore sbagliato, che sa di beffa e di rivincita. Torniamo con la memoria ai mondiali di Spagna 1982, quei mondiali che videro il trionfo degli azzurri di Enzo Berzotto. Ma gli dei dell'Olimpo e dello sport ci chiedono di concentrarci su un'altra gara. È il 17 giugno 1982, quando a Oviedo si affrontano Austria e Cile, nel primo incontro del gruppo B, che vede protagoniste anche la Germania Ovest, poi finalista con gli azzurri, e l'Algeria. Ad arbitrare la sfida l'arbitro uruguaiano Cardellino. Guardialini è il colombiano Aristi Zabal e il nostro Paolo Casarin, uno dei migliori arbitri del nostro calcio e che oggi è ospite qui a Olimpia, cioè la città dello sport. Buonasera, signor Casarin. Buonasera, buonasera. Allora, signor Casarin, quel pomeriggio lei era schierato come guardalinee, ma in realtà allora non c'era la distinzione tra arbitri e guardalinee. Di fatto eravate 3 arbitri in campo, giusto? Non solo che eravamo in 3, ma eravamo tutti arbitri, perché a quei tempi le partite internazionali, campionati del mondo, ma anche quelle di Coppa, non avevano i guardaline, che sono una figura nata nel 1990. Quindi fino al 1990 tutte le partite internazionali avevano una terna che era fatta di arbitri, cioè nel senso di gente che faceva solo l'arbitro, diciamo. Ecco. I guardaline anche di quel campionato del mondo nel quale io ho fatto sia l'arbitro che guardaline, erano magari figure importanti come arbitri, mi riferisco, non so, ad arbitri del valore di Palotai, Klein, cioè arbitri che a quei tempi erano veramente al massimo della quotazione, che poi come guardaline erano tutt'altro che bravi, disattenti, poco mobili, ecco, e nel quale situazione mi trovavo anch'io in Cile Austria. E allora, signor Casarin, scendiamo subito in campo a Oviedo in quel pomeriggio del 17 giugno 1982. Siamo a 20 secondi della 5 della tarde con 15 minuti. Attenzione, Agustino Strozza. Attenzione al partito, questo basta. Partita subito vivace tra due squadre in cui i piedi buoni non mancano certo. Basti pensare ad esempio tra gli austriaci all'attaccante del Cesena Walter Schachner e all'interista, che di lì a poco sarebbe passato alla Roma, Herbert Proasca. E tra i cileni proprio a quel Carlos Caseli, l'attaccante di forti simpatie socialiste che aveva preso parte alla grottesca gara nello stadio Lager di Santiago nel novembre 1973, poco dopo il golpe militare di Pinochet. È il 21esimo del primo tempo quando il terzino destro austriaco Kraus trova spazio sulla fascia. Il cross è preciso e a centro area proprio Schachner salta di testa in completa solitudine. Sta giocando il numero 6 Plattenberg, también Kraus. Arriva Schachner! Austria in vantaggio per 1-0, il mondiale del Cile è già tutto in salita. Ma la Roja non demorde e reagisce. Passano appena 6 minuti e proprio Caseli trova spazio sul lato di Kraus. I due entrano in contatto sul lato destro dell'area di rigore austriaca. Cantando Caseli, la marca di Kraus. Caseli, penal, penal, penal, penal di Kraus. Hai penal favorable a Cile. Reacción de los austriacos. Caseli nel pito. Hay foul de Kraus en contra de Caseli como para verlo reiterado en pantalla. Cardellino non ha dubbi, a nulla servono le proteste austriache. È calcio di rigore. Paolo Casarin, momenti che non si dimenticano facilmente, vero? Io mi ricordo perfettamente di Cardellino, che era questo uruguaiano molto, molto importante a quei tempi, ecco, eravamo anche tutti con età, lui era molto anche avanti con l'età, no? Per dire 45 anni più o meno, mi pare di ricordare, e so che era un uomo di grande esperienza come tutti gli arbitri sudamericani, e quindi diede questo rigore che doveva sistemare, cioè raggiungere il pareggio in un campo dove c'era un numero di cileni, mi ricordo per questa bandiera molto singolare che loro hanno, si facevano sentire, voglio dire, molto, molto appassionati, ma anche di un numero considerevole, che fu una delle cose che mi sorprese. Eppure c'erano proprio questo gruppo di persone, tutte imbandierate, eccetera, e quindi quel rigore doveva rimetterli in pace dopo il gol di Schachner, appunto. Sul dischetto va proprio Caseli. La rincorsa è senza tentennamenti. Il destro fila pulito verso la destra di Consiglia. Tutto sembra perfetto, ma qualcosa va storto. Caseli prende Consiglia. Caseli se lo perdió. Caseli se lo comió. Cerco Livingston. Reiteremos el penal en Santiago. Bueno, la verdad que estamos demudados. Ya había perdido un penal acá, recordemos, Caseli, en ese mismo lado que le dio al poste, y ahora esquinó tanto su afán que echó la pelota fuera. Una ocasión de oro. Invece che in fondo alla rete, il pallone si spegne sui cartelloni pubblicitari. L'Austria resta avanti per 1-0. Il Cile prova ancora la rimonta. Le occasioni buone non mancano, anche per lo stesso Caseli. Cancha evidentemente resbalosa. Debido a la lluvia de esta mañana, el fútbol con René Valenzuela, que le ganó a Schrankel. Carlos Caseli, descolgado Valenzuela, profundo Caseli. Casi, casi Chile, hay tiro de esquina favorable a la selección. Niente da fare, il fischio finale sancisce la vittoria austriaca. Franco nel pantaglio, e poi la sull'ultima Cile, Manuel Rojas con Papayáñez, Elías, no hay recepción, salva Beumeister, Franco contra Valenzuela. Ha terminato il partito, ha ganato Austria, Austria 1, Cile 0. Appena iniziato, il mondiale dei cileni sta già per finire. A Santiago non sono solo i tifosi ad essere delusi. Il generale Pinochet, che aveva puntato forte sul mondiale per rinsaldare gli umori popolari intorno alla dittatura, schiuma rabbia. E per Casali è tempo di pubblici processi. Le sue simpatie socialiste sono note. Il sospetto è più che fondato. Che abbia sbagliato apposta il rigore per rovinare la festa a Pinochet? Federico Appel, disegnatore che a questo rigore ha dedicato una graphic novel. Tra l'altro Caselli aveva dei precedenti in tal senso, nel senso che anche i famosi mondiali del 74 Caselli venne espulso alla prima partita, cosa abbastanza inusuale per un giocatore come lui che notoriamente era molto poco falloso, insomma, quindi c'erano dei precedenti interessanti. Criticatemi anche stavolta, come già accadde nel 1974, ma ricordatevi che i rigori li sbaglia solo chi li tira. Così Carlos Caselli, intervistato dalla TV di Stato, spiegò il suo errore a milioni di tifosi cileni. In questo momento è una situazione abbastanza difficile, abbastanza amarga. Mi ricordo di ricordare che nel Mondiale del 74, dopo l'espulsione, fu molto criticato per la prensa cilena. E in questo momento sicuramente anche voglio essere molto criticato per aver perdito questo penale. Però per perderlo hai che tirarlo, hai che stare ahí. Sono passati più di 30 anni da quel rigore. Il regime di Pinochet è caduto, il generale è morto, Carlos Caselli è oggi uno stimato commentatore sportivo TV. Il Cile ormai un paese democratico che prova a fare i conti con un passato che non passa. Ma l'idea che possa allora averlo davvero sbagliato apposta quel tiro dal dischetto contro l'Austria in quel torrido pomeriggio a Oviedo aleggia ancora su quel prato. Sentiamo ancora Federico Appel. Immagino sbagliare un rigore apposta in quella maniera probabilmente è un'impresa, diciamo, molto difficile, cioè Caselli dovrebbe aver avuto un'abilità e una freddezza e una razionalità quasi non umana. Detto questo, la storia del rigore sbagliato è fondamentale, è stata fondamentale per me perché continuava quel discorso di rovesciamento di storia classica di calcio, cioè la storia di Caselli non è una storia normale, è una storia tutta rovesciata, dove appunto succede che alla fine Caselli vince la sua personale battaglia sbagliando un rigore, il che già per me ha tantissimo di romanzesco. Paolo Casarin, allora abbiamo rivissuto quella storica, a suo modo, gara tra Austria e Cile di quel 17 giugno 1982. A distanza di tanti anni, lei che allora era in campo come guardalinea, che ne pensa? Secondo lei Caselli sbagliò davvero apposta quel penalty? Sì, io posso anche pensare che questo giocatore abbia dato un contributo per rovesciare, voglio dire, tutto quello che succedeva in Cile, però probabilmente e chi ha pagato più di tutti è stato proprio lui. Paolo Casarin, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e buona fortuna a tutti. Anche per la puntata odierna di Olimpia è tutto. Un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito in podcast radio24.it, sulla pagina web di Olimpia e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti.